Prima Epistola ai Corinzi, capitolo undicesimo. Or io vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e ritenete i miei insegnamenti quali ve li ho trasmessi. Ma io voglio che sappiate che il capo d'ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo. Ma ogni donna che prega o profetizza senza avere il capo coperto da un velo fa disonore al suo capo, perché è lo stesso che se fosse rasa. Perché se la donna non si mette il velo, si faccia anche tagliare i capelli. Ma se è cosa vergognosa per una donna di farsi tagliare i capelli o radere il capo, si metta un velo. Poiché, quanto all'uomo, egli non deve velarsi il capo essendo l'immagine a gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo, e l'uomo non fu creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo. Perciò, la donna deve, a motivo degli angeli, aver sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. D'altronde, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna, poiché siccome la donna viene dall'uomo, così anche l'uomo esiste per mezzo della donna, e ogni cosa è da Dio. Giudicate voi stessi, è egli conveniente che una donna preghi Dio senza aver la testa velata? La natura stessa non vi insegna ella che se l'uomo porta la chioma, ciò è per lui un disonore? Mentre se una donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, perché la chioma le è data a guisa di velo. Se poi ad alcuno piace d'essere contenzioso, noi non abbiamo tale usanza, e neppure le chiese di Dio. Mentre vi do queste istruzioni, io non vi lodo del fatto che vi radunate non per il meglio, ma per il peggio, poiché, prima di tutto, sento che quando vadunate in assemblea ci sono fra voi delle divisioni, e in parte lo credo, perché bisogna che ci siano fra voi anche delle sette, affinché quelli che sono approvati siano manifestati tra voi. Quando poi vi radunate assieme, quel che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, e mentre l'uno ha fame l'altro è ubriaco. Non avete voi delle case per mangiare e bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e fate vergogna a quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò io? In questo io non vi lodo, poiché ho ricevuto dal Signore quello che v'ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte che fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: «Questo è il mio corpo che è dato per voi». Fate questo in memoria di me. Parimente, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore affinché egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Or, provi l'uomo se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve il proprio giudizio, se non discerne il corpo del Signore. Per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. Quando dunque, fratelli miei, vadunate per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, mangi a casa, onde non vi adunate per attirare su voi un giudizio. Le altre cose regolerò quando verrò.